Benvenuti nel terzo episodio di La casa del ciliegio. Oggi parleremo di cosa non è la mindfulness, poiché spesso si creano malintesi o confusioni su questa pratica. È importante chiarire alcuni concetti fondamentali per capire come la mindfulness possa davvero essere utile e come non venga fraintesa o ridotta a qualcosa che non è. Innanzitutto, voglio chiarire una delle prime incomprensioni. La mindfulness non è una religione. Mentre la mindfulness ha radici nel buddismo, è stata separata dalla sua componente religiosa. In effetti, la mindfulness è una pratica laica che non richiede alcuna fede religiosa specifica. È una pratica di consapevolezza che può essere praticata da chiunque, indipendentemente dalle proprie credenze. Non è evasione dalla realtà. Un altro malinteso comune è che la mindfulness sia un modo per fuggire dalla realtà. In realtà, la mindfulness ci invita a essere presenti e consapevoli della nostra esperienza, anche quando essa è difficile o scomoda. Non si tratta di ignorare i problemi, ma di affrontarli con una mente aperta e senza giudizio. È un invito ad accogliere la realtà così com'è, senza cercare di cambiarla o fuggirne. Un altro punto importante è che la mindfulness non è una soluzione rapida. Molte persone si aspettano che la mindfulness risolva immediatamente i loro problemi, ma, come ogni pratica, richiede tempo e impegno. Non è una soluzione rapida. I benefici arrivano con la pratica costante. La mindfulness è una maratona, non uno sprint. Non aspettarti di risolvere tutto in una sola sessione. Infine, la mindfulness non è passività. La mindfulness non è nemmeno una pratica di passività. Si tratta piuttosto di una pratica attiva di consapevolezza, invece di reagire automaticamente alle situazioni, impariamo a rispondere in modo più riflessivo e consapevole. Si tratta di scegliere come rispondere alle emozioni, ai pensieri e agli eventi della vita, piuttosto che reagire impulsivamente. Con questi chiarimenti, speriamo che la mindfulness appaia per ciò che è davvero, una pratica potente, ma anche una disciplina che richiede pazienza e costanza. Se vuoi approfondire la mindfulness nella tua vita, ti invito ad iscriverti ai miei corsi. Li trovi sulla mia pagina Instagram, insieme a informazioni dettagliate sul programma MBSR. Nel prossimo episodio parleremo dei 7 pilastri della mindfulness, che sono le basi fondamentali di questa pratica. A presto!